325. Vitella di latte in guazzetto. Riesce un umido di non molto sapore, ma semplice e sano, perciò lo descrivo. Prendete vitella di latte nel sottonoce o nel culaccio, battetela, legatela perché stia raccolta e ponetela in cazzaruola come appresso. Ammesso che il pezzo della carne sia grammi 500 senza osso, coprite il fondo della cazzaruola con grammi 30 di carne secca a fette sottilissime e grammi 30 di burro e sopra questo strato collocate meno di mezzo limone tagliato in 4 fette sottili alle quali leverete la corteccia e i semi. Sopra queste cose ponete la vitella per rosolarla ben bene da tutte le parti, ma badate che non prenda di bruciato a motivo del poco umido che vi si trova. Fatto questo, scolate l'unto superfluo, conditela con sale e pepe e poco dopo bagnatela con un bicchiere di latte caldo che avrete prima fatto alquanto bollire a parte. Ma non vi sgomentate se questo impazzirà come probabile. Coprite la cazzaruola con carta a doppio e a fuoco lento tirate il pezzo della carne a cottura. Quando sarete per servirla, passate il sugo. Questa dose potrà bastare per 4 persone.